Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando. Mari D vi dà il benvenuto e vi augura un'ottima trasmissione in compagnia di tutta l'equipe di Brussellando. Quindi saluto alla regia Dani M. E prima di passare agli ospiti di questa sera, ringrazio tutti coloro i quali ci hanno inviato messaggi di simpatia per la trasmissione che abbiamo proposto sull'Expo di Milano. Effettivamente quello che è accaduto a Milano qualche giorno fa sicuramente non è un buon segnale per una manifestazione che, come sappiamo, dovrebbe comunque unire i popoli e sicuramente non dividerli. Ci auguriamo ovviamente che questi eventi non si ripetano in nessun modo. Questa settimana a Bruxelles è una settimana molto importante, quindi magari un evento proprio di agenda culturale è la giornata dell'Europa, che è il 9 maggio, quindi pure un sabato. Quindi vi ricordo che tutte le istituzioni europee saranno aperte, apriranno le proprie porte dalle 10 del mattino e grosso modo fino alle 18, quindi se non avete mai visitato il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Consiglio, il Comitato delle Regioni, il Comitato economico e sociale, o se aveste anche curiosità o perplessità, potrete sicuramente avere l'occasione questo sabato di visitare le istituzioni e di godere anche di quelle che sono le attività organizzate proprio intorno al Rond-Point Schuman, tra cui la festa del pane, che ormai è diventato un evento abbastanza in voga a Bruxelles quel giorno. Il giorno dopo invece, il 10 maggio, è la tradizionale giornata dell'Iris, quindi ritornano eventi organizzati invece un po' dappertutto in città che ricordano per l'appunto l'Iris, che è il simbolo di Bruxelles. Veniamo invece all'agenda italiana. Sono molto contenta perché sono di passaggio qui a Bruxelles proprio sabato, quindi 9 maggio, al VK, quindi in questo ormai luogo di riferimento per la musica italiana a Bruxelles, i Sud Sound System, che hanno pubblicato Statorno, un nuovo album, nel giugno del 2014 che sono lieti di presentare anche qui a Bruxelles. Ricordiamo brevemente che i Sud Sound System sono un gruppo salentino che dalla fine degli anni 80 domina la scena reggae e la dancehall italiana. Con Statorn possono veramente valere di collaborazioni eccellenti, in cui si mescolano una serie di sonorità che dalla dancehall arrivano all'hip hop, passando per, scusate, non sono un'esperta, lo sapete, tra dubstep, funk, rhythm and blues. Quindi ci sono tante belle canzoni, sono 19 i brani, da Parole e tante altre, insomma, a Statorno, che in realtà è una bellissima ballata d'amore. Quindi è una scrittura matura, solare, positiva, e siamo lieti quindi, e ringraziamo i nostri amici di Beat Live che ci hanno permesso di poter intervistare i Sud Sound System. Quindi ascoltiamo che cosa ci hanno detto ai microfoni proprio di Radio Alma, brussellando. Ieri pomeriggio l'abbiamo raggiunto telefonicamente prima di partire per una delle proprie tournée. Cari amiche, cari amici, quindi eccoci nuovamente qui. Come accennavamo per l'appunto in apertura, sono con Nando, uno dei membri del gruppo di Sud Sound System. Nando, grazie di essere qui con noi a Radio Alma, brussellando. Grazie a voi. Allora, che cosa è cambiato in questi 4 anni dopo l'ultimo disco ultimamente? Direi 5, perché insomma l'ultimo disco è uscito a giugno dell'anno scorso, però siete qui a Bruxelles sabato proprio per presentare Staturno, che sarà invece un po' un inedito per la piazza brussellese. Ah, insomma, qualche cambiamento c'è stato, anche se potremmo dire che poco è cambiato, perché sono anni che ci vogliono invischiati in questa crisi, una crisi non voluta chiaramente dalle persone, ma dai nostri politicanti, che spesso, soprattutto in Italia, sanno amministrare molto male la vita pubblica delle persone. E chi ne paga le conseguenze ancora più sono i giovani. Spesso si sente parlare di diritti negati, di futuro negato ai giovani. La musica ancora una volta interviene per curare gli animi, per dare degli spunti su cui discutere, e poi insomma da parte nostra, visto che abbiamo una tradizione che da sempre ha visto nella musica una cura, una medicina, cerchiamo di lenire i mali di questa società con un po' di danza collettiva e di sudore che portano alla catarsi. Mi sembra di capire quindi che questo è anche un po' il fil rouge di Staturno, perché tanti di questi temi di cui stai parlando si ritrovano poi nei brani dell'album. Sì, sta tornando, sta tornando questo artista perché, come dicevi, erano 4 anni che non facevamo un disco, anche se comunque questi 4 anni abbiamo diverse prime note collaborazioni. Ma sta tornando su San Sisto insieme alla cultura del sud, la cultura del Mediterraneo, si parla sempre di più di dieta mediterranea, e comunque poi paradossalmente proprio negli anni in cui la crisi sta affliggendo tutto il mondo, noi ecco siamo un po' abituati a tutto ciò, gli anticorpi, per gli sposti, anzi intendiamo ribadire che forse è meglio smetterla di correre e stare, starsene un po' più tranquilli, a godersi, diciamo, la natura, che ha bisogno anche di essere curata e recuperata laddove finalmente invece l'abbia toppata. Il sud è tutto ciò, è una vita più tranquilla, più naturale, una vita che deve allinearsi e sincronizzarsi con i ritmi naturali, è quello che vogliamo ed è quello che significa Sartor. Sta tornando appunto questa cultura. Però c'è da dire una cosa, che nel vostro album ci sono tanti testi positivi, cioè nonostante tutto, questo momento storico difficile, così come tu accennavi, però ci sono canzoni veramente in ogni caso piacevoli da ascoltare. Sì, quello è il piacere anche di cantare, perché la musica aiuta, ripeto, anzi, attraverso la musica cerchiamo di risollevare sullo spirito gli animi delle persone, perché di quello che c'è bisogno, anzi, in momenti come questi bisogna proprio tenere alto il morale per cercare di andare avanti insieme. Guarda, certo. Esatto, senti, allora prima parlavi anche di collaborazioni, però in questo album pure ce ne sono tante. Magari ci racconti come sono nate queste vostre collaborazioni? Ah, come sempre, guarda, abbiamo la fortuna di ospitare molti artisti internazionali, sapete. Quando ciò accade li invitiamo nel nostro studio per lasciare loro, diciamo, un contributo, per cui da lì nascono numerose collaborazioni. Sapete, diciamo, oltre ad essere diventato uno dei centri del turismo mondiale, è anche comunque uno dei posti dove si fanno tantissimi concerti, e questo giova al nostro studio e alle nostre produzioni. Certo, certo. La vostra musica tuttavia è anche un eterno tributo al Salento. Il Salento è il protagonista delle vostre canzoni. Sì, chiaramente noi da salentini cantiamo dialetto e scriviamo la nostra cultura, la nostra terra, conosci quel fatto di essere salentini del mondo cittadini, ecco, questo ci piace ribadirlo sempre, perché non siamo, diciamo, non crediamo di vivere nel posto migliore del mondo, ma è un bel posto, rispettiamo gli altri, tutto si racchiude nella frase di salentini del mondo cittadini. Certo, e allora veniamo alle canzoni, ce n'è una in particolare che mi ha colpito, ma non solo la canzone in quanto tale, anche il video, Do parole. Com'è nata l'idea di questo video? Ah, è una ballata d'amore, diciamo, uno dei temi che sempre ci ha interessato, una ballata, quindi si invita a ballare le persone. Il video è stato molto interessante, non so per farlo, perché insomma, a parte che ogni secondo ci sono 12 fotogrammi, quindi 12 foto, è stato molto duro fare il video, però ne è valsa la pena perché ho avuto diversi riconoscimenti. Sta continuando anche a essere proposta in diversi festival, e questo ci ha dato grandissime soddisfazioni. Poi voler usare, cioè dobbiamo voluto usare un po' frutta, verdura, proprio per sottolineare quel messaggio che viene da una terra che è circondata dal mare, ma che guarda la campagna con interesse. Anzi, diciamo, ultimamente nei nostri concerti stanno anche portando avanti la campagna per salvare i nostri lidi, perché c'è qualche fatto criminale che vuole tagliare i lidi perché dicono che sono malati. Tuttavia nessuno fino ad oggi è riuscito a trovare di cosa sono malati e dove sta la malattia. Cioè, abbiamo il timore che ci sia dietro, diciamo, una truffa, qualcuno voglia arrivare all'emergenza per rifattare dosi. Anzi, proprio un'associazione salentina, Pitolinse, che sta lì a Bruxelles, con Antonia Battaglia ci stanno aiutando a fare questa, a risolvere il problema, per impedire che gli edili vengano tagliati, perché oltre ad essere, diciamo, l'economia più importante in Salento, sono anche parte della nostra identità, della nostra storia, guai a toccare le dita. Certo, assolutamente. Senti, allora siamo a Bruxelles, c'è un messaggio oppure un saluto o qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti indirizzare agli ascoltatori di Radio Alma e di Bruxellando? Noi vi aspettiamo perché abbiamo tanta musica, nostra, noi sappiamo farvi stare bene, farvi per vivere, e ricordiamo che da pronti un po' di tarantati abbiamo la nostra musica, la nostra medicina, che cominciamo di farvi per vivere, di far bene, il vostro corpo ne gioverà sicuramente, noi vi aspettiamo. Allora Nando, per salutarci, vorremmo salutarci con una canzone. Quali delle canzoni vorresti che ascoltassero i nostri ascoltatori immediatamente dopo la tua intervista? Se io ho parlato di medicina, appunto mettiamo la medicina del testimone. Va bene, allora Nando, noi ti ringraziamo e ricordiamo quindi ai nostri amici all'ascolto Sud Sound System al VK, che è a Rue de l'École 76 a Bruxelles, sabato 9 maggio, anche festa dell'Europa, quindi dalle ore 19, porte aperte. Per maggiori informazioni www.baitlife.com. Nando, grazie e probabilmente a sabato. Ok, grazie. A presto. Cari amiche e cari amici, eccoci nuovamente qui, bentrovati, bentrovate. Sono molto contenta perché, sapete, Bruxellando ci tiene molto agli ospiti che ha nel tempo scoperto, e questa sera, come vi annunciavo in apertura di trasmissione, ritorna in collegamento telefonico dall'Italia Adriana Assini. Adriana, benvenuta a Radio Alma, Bruxellando. Buonasera e bentrovati. Adriana, noi ci siamo già sentiti un paio di volte a proposito di alcuni romanzi che tu hai scritto sempre a proposito di donne. Ci eravamo lasciate lo scorso anno, avevamo parlato della Riva Verde, avevamo parlato anche delle donne, delle Rose di Cordova, scusa, in cui protagoniste assolute sono sempre ritratti di donne. Che cosa è successo nell'ultimo anno, dall'ultima volta in cui ci siamo sentite al telefono? Tante cose, anche belle. Intanto le Rose di Cordova continuano ad avere molto successo, c'è stata una, non una ristampa, ma addirittura una nuova edizione completamente rivista, e l'ho presentato all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, con grande piacere. Poi anche gli altri miei romanzi sono andati in giro per l'Italia, e sempre riscuotendo un buon successo sia di pubblico che di critica, e attualmente proprio domani si inaugura la mostra dei miei acquarelli in una collettiva a Londra, nel quartiere delle mostre di Brick Lane, quindi molte soddisfazioni. E allora toglimi una curiosità, qual è stata la reazione in Spagna, a Barcellona, sulla tua interpretazione di diciamo, a me dispiace dire quell'aggettivo, ma questa sera con la testa, Giovanna di Castiglia, giusto? Invece di chiamarla in altro modo. Sì. Soprattutto di condivisione in parte, e in parte di sorpresa, perché pur essendo un personaggio noto, ma è noto appunto per la sua presunta follia, e quindi lo si conosce molto poco, di conseguenza rimangono, una parte degli spagnoli rimangono sorpresi nel vedere che una scrittrice italiana si è interessata a un loro personaggio e lo riabilita, e che sono interessati, sono incuriositi e interessati. Quindi comunque è un tema che suscita interesse, nonostante la storia, la storiografia in particolare, abbiano poi consegnato al tempo, a noi lettori, un'immagine totalmente diversa da questa regina che si trovò comunque giovanissima vedova, nelle mani un regno poi immenso, qual era quello della Castiglia e Aragona, insomma di qualche secolo fa. Quindi la domanda ovviamente l'ho fatta perché la Riva Verde era anche ambientata a Bruges, quindi c'era un legame con le terre che ci ospitano, già che anche Giovanna la Prima trascorse un periodo, ricordo bene, pure lei trascorse un periodo qui a Bruxelles. Sì, a Bruxelles, sì, perché aveva sposato Filippo il Bello. Aveva sposato Filippo il Bello, infatti credo che la loro residenza reale fosse proprio Palazzo Kudenberg, quindi esatto, qui sì, al centro di Bruxelles. E invece questa sera abbiamo il piacere di parlare di un altro tuo romanzo, dal titolo Un sorso di arsenico, dove invece cambi prospettiva, perché passiamo ora al 600, cambi latitudini, perché dal nord arriviamo al sud e la protagonista di questo tuo romanzo è Palermo, e poi descrivi, come già ti ho detto in precedenza, una donna, Giulia Tofana, che è assolutamente straordinaria. Allora, sono proprio curiosa di sapere, uno, come hai riscoperto questo personaggio, e due, quanto è stato difficile repertoriare le fonti che ti hanno poi aiutato a ricostruire sia le atmosfere sia la Palermo del Seicento. Intanto ho incontrato il personaggio di Giulia in un modo abbastanza banale. Facevo in una giornata torrida d'estate, facevo le parole crociate e quindi avevo dato la risposta a una definizione, veniva fuori questo suo nome, Giulia Tofana, e mi sono talmente curiosita e sono poi andata a cercarla nei giorni successivi in biblioteca. E lì ho scoperto che era un personaggio su cui mi sarebbe piaciuto scrivere, perché aveva tutti i requisiti per interessare, incuriosire, appassionare. E naturalmente, come per tutti i romanzi, le ricerche sono sempre piuttosto vaste e si fa un po' il topo di biblioteca, si vanno a cercare i documenti antichi. Su di lei ha scritto La De Mollo, ma era uno storico, nell'Ottocento, poi ci sono poche cose, ci sono gli atti del processo, il resto bisogna riuscire, come nel mosaico, a mettere insieme le varie tessere e a ricostruire poi l'immagine completa. È un lavoro prima di indagine e poi c'è la fantasia dello scrittore. Allora, partiamo da una serie di elementi che secondo me si ritrovano nella tua scrittura. Tu hai sempre deciso di scrivere comunque di donne particolarmente forti o comunque poco inclini, insomma, ad essere soggiogate, diciamo così. Però quello che mi ha colpito di questo tuo personaggio è che è difficile definirla, perché innanzitutto è una donna libera. Secondo, è una donna audace, perché insomma le sue abilità, io ho letto un articolo, poi non so se è vero, che pare abbia avvelenato più di 600 uomini nel corso della sua vita. Questo è quello che ho letto, non so poi se sia vero. Non direttamente, ecco, ovvero lei non avvelenava, lei vendeva il veleno, quindi erano poi le mogli di questi 600 uomini che avevano provveduto alla somministrazione, quindi a farli fuori. Tanto è vero che col suo nome... Non ha mai ucciso nessuno. Sì, indirettamente, certo, però voglio dire, insomma, la sua acqua Tofana mi sembra essere molto conosciuta. Insomma, ha un suo perché. Ma veniamo al personaggio, che cosa ti ha incuriosito di più? Perché tu descrivi, come dicevamo prima, una donna libera, ma quindi... Secondo te è un'eroina o un'antieroina? Dove la collocheresti da un punto di vista dei personaggi letterari? Partiamo da questo punto di vista e poi magari ci soffermiamo sull'elemento invece più storico. Giulia è un'anguilla, sfugge alle definizioni, ma a me è piaciuto, l'ho sentita così e è piaciuto descriverla così. Lei è fatta di zone e ombre molto forti, molto accentuate, e quello che prevale è la sua voglia di riscatto da una vita di miseria, da una vita di ignoranza. Si riscatta con le armi che ha, ovvero con la sua intelligenza, perché pur essendo analfabeta lei riesce a trafficare con le polveri, l'antimonio, no? L'arsenico, e furia di fare esperimenti riesce a ottenere la formula del veleno perfetto, e in questo si vede tutta la sua tenacia e anche la sua arguzia. Naturalmente nel tempo poi ci sono una serie di vicissitudini che la maturano, la cambiano, lei alla fine vuole staccarsi da questa vita che insomma è un po' infame, che comunque vendendo il veleno contribuisce alla morte delle persone, però non lo fa per guadagnare, si mette in qualche modo al servizio delle altre donne, che lo possiamo immaginare nel 600 non avevano diritti, la legge era scritta dagli uomini per gli uomini contro le donne potevano essere uccise come mosche e i mariti se la cavavano con un'ammenda. e quindi lei si schiera dalla parte delle donne e ne diventa un po' la paladina, e questo è quello che di Giulia mi è piaciuto di più. Senti, però allora parliamo di simboli, perché c'è il simbolo del veleno. Allora, che simbolo, o meglio, come possiamo interpretare questo simbolo, per l'appunto, che è quello del veleno? Ma il veleno intanto era l'arma, è sempre stata considerata l'arma più vicina alle donne, anche se è subdolo, perché agisce nel silenzio, agisce nell'ombra, però è anche vero che sopperisce alla minore forza fisica, no? In uno scontro armato una donna avrebbe avuto la peggio, invece affidandosi al veleno si riusciva a ottenere l'effetto senza doversi esporre e spesso senza lasciare segni del delitto. Quindi diciamo è tipicamente femminile come arma. E Giulia ne fa ricorso proprio perché è la sua forma di sostentamento, non avrebbe potuto vendere spade, siccome lei appunto non ne faceva un uso diretto ma lo vendeva, cosa c'è di meglio del veleno? In effetti è vero, anche perché poi molto spesso, tra l'altro, c'è chi associa le donne proprio al veleno stesso, quindi insomma è un simbolo che probabilmente nel tempo è rimasto. Però c'è un elemento che tu dicevi proprio all'inizio, cioè la volontà di questa donna comunque di riscattarsi, di riscattare la sua stessa posizione sociale, tant'è poi che lascia Palermo, lascia l'uomo che ama, Manfredi, e si reca a Roma. Giusto? Sì. Ecco. Certo. Magari ci puoi dire qualcosa in più di questo suo periodo romano, come cambia, se cambia e quali furono le conseguenze per lei? Lei è obbligata a lasciare Palermo a seguito di un incidente e accetta di seguire, questa storia documentata, accetta di seguire un frate che si è innamorato di lei e che lei poi ricambierà, anche se con molte contraddizioni. Quindi questo frate, che viene a Roma per fare carriera nell'ambito ecclesiastico, le offre una tranquillità economica e anche poi la sua complicità in tutti i suoi traffici. È un personaggio abbastanza ambiguo e interessante anche lui, almeno quanto Giulia. Ed è qui che Giulia comincia una storia completamente diversa, impara a leggere, impara a scrivere, veste bene, abita in un quartiere decente, in una casa comoda, e quindi riesce a fare a meno dei suoi traffici, finché a seguito di un incidente di percorso torna a farsi paladina delle donne e venderà il veleno soltanto a loro, e saranno almeno 600 le sue clienti documentate, ma probabilmente qualcuna era poi sfuggita alla rete della giustizia, quindi saranno state un numero sicuramente superiore, e questo già ci fa pensare a quello che poteva essere la situazione all'epoca nei rapporti matrimoniali e nei rapporti delle donne con la legge. Assolutamente. Senti, in Italia com'è stato recepito questo tuo romanzo? Perché purtroppo il tema, stavo pensando mentre tu parlavi, a qualcosa che ahimè è ancora drammaticamente attuale, che è la violenza sulle donne, il cosiddetto femminicidio, che pare non si fermi, non si arresti in Italia. Sì, e infatti quando vado a parlarne, sia, devo dire, anche da parte degli uomini c'è una certa benevolenza nei confronti di Giulia, perché si vede in lei una persona che, vabbè, forse non era ortodosso il metodo, ma comunque alzava la testa e cercava di farla alzare anche alle donne che erano le vittime, perché queste donne ricorrevano ai suoi buoni uffici perché erano maltrattate, perché erano costrette a matrimoni combinati con persone, con uomini molto spesso più grandi di loro, che non le amavano, che le maltrattavano, che le malmenavano. Quindi era un atto di ribellione forte, e che queste donne trovavano in Giulia la possibilità di tornare libere. Quindi diciamo che in genere, pur essendo un personaggio un po' particolare, non la trattano da, non la percepiscono come un'assassina, ma piuttosto come una liberatrice. Come una liberatrice, quindi c'è soprattutto questo senso di libertà. Infatti ti dicevo prima che una delle immagini che pensavo mentre leggevo, e poi il finale soprattutto mi è piaciuto in particolare, ma ovviamente non lo diciamo, è l'immagine di una pantera, di un felino, di, come dicevi tu prima, di qualcosa che sfugge, che è bello da vedere, ma attenzione, cioè insomma, prima di toccarlo, insomma, ci penserei due volte. Adriana, purtroppo in radio, come sai, il tempo è tiranno, quindi no. C'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti aggiungere su questo tuo personaggio? No, questo che stavo dicendo proprio poc'anzi, ovvero che mi sorprende e mi piace, sono contenta che nonostante tutto sommato sia un personaggio certo forte, ma anche insomma, un po' ambiguo e un po' difficile da digerire, invece venga accolto con molta simpatia. E siccome io l'ho vissuto con grande simpatia, mi piace che sono riuscita a trasmettere questo sentimento anche ai miei lettori. Ma quello che si emerge, come ti dicevo io, è proprio che dei personaggi femminili di cui ho letto, comunque questo è quello in cui secondo me c'è molto di te, perché mentre negli altri personaggi secondo me sei stata molto più inerente alle loro storie, ma d'altronde non poteva essere diversamente, in questo mi è sembrato di trovare veramente un po' più di libertà, un po' più di margine di manovra, ma ovviamente questa è una mia opinione. No, condivido. Bene, allora, domanda di rito, stai lavorando a qualcos'altro oppure sei per il momento assorbita dagli acquarelli, dalla promozione di questo tuo romanzo o ancora dalle rose di Cordoba? Riesco a fare più cose, nel senso che continuo a promuovere tutti i miei romanzi, ho una serie di appuntamenti anche prossimi, e nello stesso tempo faccio mostre e in più sto limando anche un altro romanzo, quindi insomma sono attiva su tutti i fronti. Bene, allora Adriana, noi ti ringraziamo, ti auguriamo veramente tutto il meglio e speriamo di averti nuovamente protagonista, nostra ospite a Bruxellando e a Radio Alma. Grazie infinite, buon lavoro e in bocca al lupo. Crepi, ti ringrazio, a prestissimo. Arrivederci a tutti. Cari amiche, cari amici, eccoci qui, siamo ormai alla fine di questa ricchissima sezione dedicata agli ospiti, all'agenda culturale di Bruxelles. Ne approfitto quindi per ricordarvi che sono stati qui con noi questa sera i Sud Sound System in concerto al VK Rue de l'École 76 a Bruxelles. Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.radioalma.eu/bruxellando. Ne approfitto anche per lanciare un invito a tutti coloro i quali ci sanno dire qual è il titolo dell'album dei Sud Sound System. Ci sarà la possibilità di vincere un biglietto, quindi solo i primi due però vedranno la possibilità di poter partecipare al concerto. Saluto anche i nostri amici di Beat Live e Claudia in particolare, saluto anche Jacopo, e Jacopo perdonami da un po' che non ci vediamo, hai ragione, e ne approfitto anche per un saluto di rito, cioè in una famiglia inglese abbastanza facoltosa e nota è arrivata una bambina da qualche giorno, ieri sera è stato svelato il nome, anzi i nomi, Charlotte Elizabeth Diana, avrete capito tutti che si tratta della figlia di Kate Middleton e del principe William, e noi facciamo veramente i migliori auguri alla madre, perché spesso ce ne dimentichiamo, e alla nuova arrivata. E salutiamo il piccolo George, che pure avevamo accolto 2 anni fa, quando per l'appunto pure lui era stato tanto atteso. Mary D vi saluta, vi augura un'ottima settimana, vi ricordo quindi il 9 maggio la festa dell'Europa, non c'è bisogno di organizzarvi, c'è soltanto veramente bisogno di voglia di vedere, scoprire, andare in giro a Bruxelles e dintorni il 10 maggio, la festa dell'Iris, che è il fiore che rappresenta il simbolo di questa nostra bella regione, da cui Bruxellando prende anche il nome. Vi saluto, vi auguro un'ottima settimana, restate con noi, restate con Georges e Fiordaliso, saluto Dani M, e Dani M sicuramente durante l'arco della trasmissione ricorderà ancora la possibilità di partecipare a questo piccolo concorso. Quindi qual è il titolo dell'album dei Sud Sound System di cui abbiamo parlato questa sera? I primi due, i più veloci, che scriveranno a brussellando@gmail.com avranno la possibilità di partecipare al concorso Ospiti Debate Live. Maridì vi saluta e vi auguro un'ottima settimana, a prestissimo! Allora, prima di dare la parola a Fiordaliso, voglio ricordare a tutti il concorso di questa sera relativo alla prima parte della trasmissione. Abbiamo due biglietti in omaggio, in regalo, per chi ci manderà una mail per primo a brussellando@gmail.com, e la domanda è: qual è il titolo dell'album dei Sud Sound System di cui abbiamo parlato questa sera nella prima parte? Naturalmente i biglietti si riferiscono al concerto di questa settimana, che avrà luogo a Bruxelles al VK, di cui troverete tutte le informazioni sul nostro blog. Quindi visitate il blog, ascoltate la trasmissione e mandateci la mail. E adesso arriva il ribrangolo sul Sound System. Era la giapponese, era il DJ giapponese. Era un DJ sul Sound System giapponese. Grazie per la sigla. Come vedete, cari amici, cari amiche, la seconda parte di Bruxellando comincia con me da sola in studio. Yeah! E a George facciamo una pernacchiona. vabbè, io non so se piangere o ridere, però preferiamo di ridere, soprattutto. E speriamo che riesca a raggiungerci entro poco. Però, per fortuna, comunque abbiamo dei libri in tasca, quindi non disperate, perché anche stasera abbiamo delle raccomandazioni a farvi. Vai. E diciamo che io leggo a periodi, come sicuramente succede anche a voi, cioè a volte mi viene voglia, per esempio, di romanzi storici, allora per un periodo leggo soltanto dei romanzi che sono ambientati nel passato. Per fortuna ce n'è abbastanza di offerta di buona qualità di romanzi storici, però devo anche notare che c'è anche un sacco di robazza in giro. E se uno legge tanto, prima o poi arriva a cogliere molto velocemente dove c'è una superficialità, un vuoto dietro una storia, e dove invece qualcosa è tridimensionale, accattivante, che poi ti spinge a voler scoprire più e più proprio della storia stessa. E magari, anzi sicuramente ve l'avrò già menzionato, ma uno dei miei sogni sarebbe che ogni periodo storico fosse, o ogni personalità storica importante fosse coperta da un buonissimo libro storico, così invece di studiare i fatti secchi della storia a scuola non faremmo altro che leggere dei romanzi eccellenti. Bello, questo è un grande consiglio che possiamo dare a tutti gli insegnanti che ci stanno ascoltando. Perché scrivere invece di un sussidiario o di un manuale una storia romanzata, ma con, diciamo, una parte vera che è accattivante, che attira? Una bella idea. A me mi piacerebbe un sacco, perché vi ricordo che la storia a scuola facevo fatica, memorizzare battaglie, memorizzare alle cause della guerra erano due punti e poi la lista, cioè queste cose, cioè, si fanno fatica, mentre se leggi un bel romanzo storico, quello ti catapulta nel periodo e ti spiega le ragioni senza spiegarteli. Sai, Fiordaliso, non so, mi accendi una lampadina. Io quando ero bambino leggevo dei romanzetti che si chiamavano Libro Game, dove tu, in base alle risposte che facevi, alle domande, praticamente il libro prendeva una piega. Ah, che bello. Pensiamo di adattarlo, non so, a un romanzo storico, si riscriverebbe la storia. Ecco, il manuale storico... il manuale storico che praticamente seguirebbe anche l'interesse o un'idea bellissima. Dai, cioè, Napoleone che vince a Waterloo. Speriamo che ci sia là fuori qualcuno che colga la sfida in qualche scuola alternativa e voglioso di fare degli esperimenti. Quindi stasera di nuovo romanzo storico, diciamo che quelli che sono la scrittrice inglese che è direi una delle grandi della scrittura storica ultimamente è la Philippa Gregory, che è molto conosciuta, ve ne abbiamo già parlato, però ogni volta lei riesce a tirare fuori dei personaggi interessanti che poi piano piano si associano, diciamo, per formare una narrativa che vi fa conoscere proprio le figure reali più importanti dell'Inghilterra. Stavolta ho letto La regina della rosa bianca, che ci conduce nel periodo delle guerre delle rose. Bello, bello. E quindi, come sapete magari, o come ve l'abbiamo già raccontato, cioè Philippa Gregory ha scritto dei romanzi su vari mogli di Enrico VIII. E stavolta invece prende due passi indietro e va nel periodo del padre di Enrico VIII, cioè Enrico VII, che è quello che deposa Riccardo il III, cioè quella della famiglia delle rose bianche, la famiglia York. Ed ecco che Enrico VII sale sul trono, però nel suo paese ci sono un sacco di persone che preferiscono ancora la casa York. E quindi fa un sacco di fatica di mantenersi sul trono, e una delle cose che deve fare per mantenere il suo potere è di sposarsi la figlia di un re precedente che fa parte della casa York, ovviamente, cioè la protagonista della storia, che è Elizabeth of York. E quindi Philippa Gregory riesce ad identificare dei personaggi femminili nella storia che sono molto interessanti. Questo personaggio in particolare è particolare perché ha poco potere, tutto sommato. Cioè è una regina incoronata, però è in balia al volere del marito che, per causa della sua insicurezza nel trono, anche psicologicamente, non è che è proprio un personaggio molto stabile. Scusate. E di conseguenza è anche molto capriccioso, cioè la sua felicità o il suo equilibrio dipende tantissimo dal numero dei pretendenti al trono, di chi sostiene questi pretendenti al trono, eccetera. E in questo periodo uno dei pretendenti al trono specialmente attirano fino ad oggi l'interesse dei storici, perché su di lui si sa pochissimo e le storie che sono state inventate attorno a lui sono state inventate ai tempi di Enrico VII, e quindi nessuno riesce più a differenziare, a fare la differenza fra cos'è il mito creato per attutire, diciamo, una rivolta, e quali sono le cose effettivamente vere. Cioè si dice che suo nome sia Pirkin Warbeck, penso che sia Fiammingo, mentre secondo alcune leggende invece sarebbe uno dei eredi della casa York. E quindi quando entra questo personaggio sul palcoscenico, la situazione di Elizabeth diventa ancora più complicata, perché questo sarebbe un suo fratello scomparso, però allo stesso tempo lei deve stare leale al suo marito e anche ai bambini che nel frattempo sono nati dall'unione e che sono attendenti ovviamente al trono di Enrico VII. È una situazione stranissima, cioè lei è una donna che vive in una corte che non si fida di lei perché viene da una casa nemica, che pensa in una corte che pensa sempre che lei stia al mezzo degli imbrogli o al mezzo di delle azioni politiche. Altro contro... che soap opera di oggi, questa è roba molto più seria. Esatto, è roba molto più seria e il talento di Philippa Gregory proprio... resta nel fatto che lei riesce a sviluppare i personaggi anche dal punto di vista psicologico in modo credibile, quindi riesce a trasmettere questa ansia della corte di dell'Enrico VII, questa insicurezza che non si sente soltanto alla corte, ma ovviamente si trasmette anche alla gente fuori per strada, che preferisce vedere dei sovrani felici, sicuri di sé e che possano provocare l'amore del loro popolo. E invece vedono una corte avvilita, spaventata, non molto coraggiosa, diciamo. E comunque, come sappiamo ovviamente dalla storia, alla fine Enrico VII è riuscito a stabilizzare il suo trono ed è riuscito a passarlo a Enrico VIII. Però diciamo che la casa Tudor, che ha vinto alla fine la battaglia, non è che ha avuto tutta sta fortuna o tutta sta felicità. E in effetti nel romanzo si... c'è anche un filone un po' medievale, superstizioso, in cui si dice che proprio le donne della casa York abbiano fatto una maledizione per cui la persona che ha ammazzato gli eredi al trono della casa York, che sarebbero morti senza cioè che il primogenito sarebbe morto e che dopo avrebbero fatto, cioè non avrebbero avuto degli eredi maschi più. Ed effettivamente, cioè ovviamente questa è un po' una stortura nella storia, che ovviamente è esattamente questo che succede alla casa Tudor. E ovviamente Enrico VIII, con tutte le mogli che si è preso, è riuscito ad avere soltanto un figlio maschio, e anche quel figlio maschio è morto, e alla fine la persona che magari alza finalmente un po' il prestigio della casa è proprio Elizabeth I, che davvero era una sovrana brava e che ha aperto la strada ad altri sovrani femminili, diciamo, dopo. Quindi è una storia ed anche una famiglia reale. Non è un caso che le regine di oggi si chiamino Elisabetta, no? Penso. Questo è un richiamo. C'è una ricorrenza di nomi nella casa reale, in tutte le case reali sicuramente, ma anche in quella inglese, che è proprio palese. Ci sono un sacco di Catherine, Elizabeth e Mary, delle Marie, delle Elisabette, delle Caterine praticamente. E George. E poi se tu ci pensi, cioè c'era anche le Anne, cioè la Anna, cioè la Anna Bolena, poi c'aveva anche... Enrico VIII aveva anche altre mogli che si chiamavano Anna, e quindi, cioè, scusa, un po' di confusione. Ed effettivamente, cioè, è così, cioè, ci sono queste ripetizioni che, cioè, erano un po' noiosi. Ed è per quello che stavo pensando, cioè, scusate, non ho verificato ultimamente quale alla fine il nome scelto per la nuova, diciamo, per la nuova ragazza della famiglia reale, tu lo sai? Charlotte Elizabeth Diana. Davvero? E di quindi c'è sempre Elizabeth. C'è sempre Elizabeth comunque. Cioè, la regina attuale si chiama Elizabeth, che è ripetizione. Dopo adesso nasce una bambina, anche quella nel nome Elizabeth, che capiamo in onore della nonna, tutto il resto, però come c'è un si sacco chiama di suo fratello? Edward? No. George. Certo, George, anche quello è un bel nome ripetitivo, sì. Sì, sì, sì, sì. In che senso ripetitivo? Non ho capito. Beh, c'erano altri George sovrani, scusa, in Inghilterra. Sì, ma non è che ciascuno è unico, uguale, diverso da qualsiasi altra persona. Finalmente vorrei un primo X. chiamalo, non so, primo X, tipo... cioè è difficile fare primo, cioè oramai c'erano James, c'era Richard, c'era Edward, c'era un sacco di nomi. Adesso se tu volessi fare primo Matthew non c'era. Ah sì, oppure un nome un po' più funny, non so, un Brian, un Kevin, ispirato agli attori. Un Brian di Nazareth. Harrison, Brian di Nazareth sarebbe spettacolare. A me piacerebbe primo Brian. Primo Brian. Scusate, perché no? Perché no? Comunque... E la sorella donna. Che ne dite di donna invece di Charlotte? No, non mi piace. Non ti piace? No. No, anche a me. Anche. Io avrei preferito Alice, perché Alice, era più bella. Sì, era bello. Vabbè. Comunque, per capire anche tutta l'eredità che ci sta dietro il nome attualissimo di un di una neonata attualissima, cioè bisogna comunque leggere Philippa Gregory, che vi farà conoscere alla grande e in modo molto piacevole tutte le vicissitudini della casa reale dal Medioevo in poi. Però. E quindi continuavo a raccomandarvelo. E comunque vi devo anche dire che, dato che sono in un periodo storico, non è che è questo l'unico libro storico che sto leggendo, e sto anche esplorando un po' dei nuovi autori che non conoscevo. E anche dei periodi storici che sono meno, diciamo, esploitate, quindi mi farà piacere di fare questa serie di libri storici a Librangolo. Anch'io sto leggendo un libro storico attualmente, ambientato a Montecatini in Toscana, molto carino. Su che cosa? Si chiama Santa Barbara e la Badessa. È una specie di giallo, c'è un furto di una reliquia di una santa a Montecatini e qualcuno deve scoprire chi è stato e perché. È molto molto carino. Ma romanzo storico in che senso? Perché ha delle radici, ha delle basi storiche. Sullo sfondo c'è la storia di Montecatini e della Toscana, ma per raccontarla c'è una traccia, un filo conduttore che segue questo furto, diciamo. Però chi l'ha scritto alla base è una persona che ha scritto, un autore che ha scritto in passato dei libri di storia vera, cioè di storia con analisi e studio di storiografia, insomma. Che differenza c'è fra un romanzo storico e Il nome della rosa? Ah, George... Ho fatto questa domanda. No, ma non è difficile la risposta. Cioè, fondamentalmente un romanzo storico, secondo me, si focalizza su un personaggio conosciuto della storia. Cioè, non uno anonimo. Mentre... Sì. O su un fatto storico accaduto, sì. Ecco. E quindi, comunque, cioè... Il nome della rosa rimane ovviamente un romanzo ambientato nel Medioevo e ambientato in un modo che tu riesci a... cioè io mi ricordo ancora che Il nome della rosa davvero sta esalando Medioevo, cioè in un modo bellissimo. George, secondo me la domanda che fa è molto interessante. Secondo me un romanzo storico deve avere una diciamo delle fondamenta storiche, nel senso che tu puoi ambientare un romanzo in un passato e descrivere questo passato come ti pare a te. Lo chiami romanzo, è ambientato tempo fa, dice un romanzo storico. Invece secondo me un romanzo storico con la S maiuscola è un romanzo che è ambientato in una fase storica dove magari c'è una storia, ma gli elementi su cui si basa questa storia sono elementi veri o comunque ricercati. Per esempio il romanzo che sto leggendo io è un po' così. Questo autore Roberto Pinocchi, che saluto, sta seguendo questo furto di questa reliquia basandosi su dei fatti realmente accaduti. Che poi sia stato effettivamente quello o quell'altro a rubarla non si sa. E io, se mi ricordo bene il nome della rosa, c'erano un sacco di richiami storici veri, cioè Umberto Eco aveva fatto un lavoro veramente in profondità, però la storia di questi due monaci eccetera penso che se la sia inventata, non è l'ha trovata in un trattato o scritta in un libro antico che magari finiva e lui se la proseguita. Non lo so, Giorgio, ti vedo interdetto. Sono interdetto. Cioè, Brian di Nazareth è storico, ma... Ecco, tra Brian di Nazareth c'è anche Rosencrantz e Guildenstern sono morti, e allora? C'è anche Frankenstein Junior. No. Quello no, di storico non ha niente. Però, mentre parliamo, mi viene in mente che Rosencrantz e Guildenstern sono sullo sfondo, non vorrei sbagliare, di Amleto. Cioè tutto ciò che ci sta intorno, cioè è una storia parallela che si svolge in contemporanea, tant'è che loro sono al seguito. In Brian di Nazareth c'è la storia di Brian che vive nello stesso momento di Gesù, nello stesso periodo di Gesù. Quindi nel nome della rosa c'è un fatto, non sappiamo se sia vero, ma tutto il resto è vero. Cioè esiste effettivamente l'ordine, esiste la biblioteca, magari no, esiste... No, l'abbazia è inventata. L'abbazia in quanto tale inventata. Ma il fatto che in un'abbazia ci fosse una biblioteca. Sì, sì, sì. Allora mi sto chiedendo, il romanzo storico, come dicevi tu, ricostruzione inventata di fatti storici. Mi viene in mente anche The Bastard, che è una ricostruzione completamente così, una fiction totale. Giorgi, Promessi Sposi, viene definito in Italia romanzo storico. Promessi Sposi, certo. Cioè, lo sfondo è vero, ma poi la storia di Renzo e Lucia se l'ha inventata il Manzoni. E quindi che cos'è che dobbiamo ricomprendere come romanzo storico? Il romanzo, per me, è la cornice che rinchiude il romanzo, che lo rende storico. Ma una cornice vera, non una cornice inventata. Ti dici, non so, nel Medioevo c'era un'abbazia, poi scopri che le abbazie non erano fatte così, o che non leggevano i libri ma leggevano i papiri, cioè, per dirti, no? Perché in realtà nel film The Bastard i personaggi sono, una buona parte dei personaggi sono veri, non tutti ovviamente, hanno inventato, sto ovviamente esagerando, ma c'è veramente Hitler, solo che vero. La storia prende una cosa diversa, quindi sono i personaggi veri, ma in un contesto fittizio, mentre dall'altra parte, cioè in un contesto di fantasia, mentre dall'altra parte il contesto è reale, ma è la storia che si svolge in questo contesto reale che è fantastica, quindi c'è questo spostamento di soggetto. Oh ragazzi, qua bisogna aprire un contest online per sta roba qui. Dovrebbe aprire un contest online e chiederci che cos'è ancora una volta, anche se sono chiesti in tanti, un romanzo. Sì, ma qual è l'alternativa? Nel senso che l'altra sarebbe storia con sfondo storico? Cioè, nel senso che il romanzo se noi diciamo che, per esempio, il romanzo storico lavora con dei personaggi veri che, di cui azioni sono romanzate, diciamo, sì. Quello di cui vi ho raccontato stasera sarebbe chiaramente un romanzo storico. Sì. Personaggi esistenti, ci mettiamo la vita dentro questi personaggi esistenti. Allora, se questa è la definizione, allora tutti quei romanzi che lavorano con lo sfondo storico ma che inventano tutto il resto dei personaggi, cosa sono? Romanzi con sfondo storico? Ma no, secondo me dipende un po' com'è la storia, perché se la storia riprende dei fatti che sono accaduti o delle cose che sono accadute, allora è un romanzo storico. Se la storia riprende, è completamente inventata e ci mette alcuni elementi storici per darsi un po' un tono, allora diventa una storia ambientata nel passato. Ti faccio l'esempio, non so se avete mai letto, si chiama Claude Isner, ma in realtà è uno pseudonimo per due scrittrici francesi, ve lo consiglio. Sono delle storie, dei gialli ambientati a Parigi nell'Ottocento, ma scritte bene, nel senso che queste qui sono due bibliotecarie appassionate della storia di Parigi dell'Ottocento e vi raccontano, per esempio, anche lì un fatto che avvenne all'epoca, inventato da loro, ma che avvenne durante l'Esposizione Universale di Parigi del 1800X, e praticamente morì uno e loro fanno un'indagine di un poliziotto fa un'indagine, eccetera, basandosi su un gendarme basato su degli elementi descritti, i vestiti dell'epoca, le usanze dell'epoca, per cui non è che si prende il taxi per andare a fare l'indagine ma prende il calesse che ci mette 3 ore, per esempio. Però in realtà il fatto era completamente inventato. Per me quella allora è una storia inventata nel passato, perché nessun fatto è vero. L'unica cosa vera è la descrizione generale, ma non c'è uno straccio di verità nel fatto. Per me il romanzo storico è quando c'è un minimo di verità, o che sia il personaggio o che sia la storia. Se è completamente inventata, allora è una storia ambientata nel passato, che può essere bellissima, eh? Sì, che esistono i gialli storici anche come categoria, sì. Esiste. No, ma come ci sono le storie fantascientifiche, delle storie bellissime ambientate in un mondo però che non esiste. Vabbè, e quindi siamo tornati di nuovo al punto di partenza. Abbiamo un ambiente che può essere storico. Però, ragazzi, è una bellissima discussione, io non me l'aspettavo, devo dire. Abbiamo dei personaggi storici, ma in un ambiente o fuori da un ambiente, o comunque all'interno di una storia fittizia, quindi l'unica cosa vera sono i personaggi storici. Quindi abbiamo ambiente, personaggi, e poi abbiamo invece i fatti storici, in cui c'è una ricostruzione... Che non sono quelli che storicamente si drogano. No, i fatti storici... Battutaccia. Ma sono i fattoni storici, quelli, cioè i grossi fatti. Ma poi ci sono i fatti storici, che però vengono legati insieme in modo fittizio. Quindi abbiamo già individuato tre possibili così utilizzi della parte storica. Sarebbe interessante parlare con uno scrittore a questo punto e vedere che cosa ne pensa lui del romanzo storico, che cosa intende lui per romanzo storico. Se ci mescoliamo anche la storia recente, dopo siamo nei guai. Perché? È perché ci può anche essere un romanzo storico che è così vicino nel tempo che è quasi documentario. Ragazzi, ve la butto lì, immaginatevi un romanzo storico che è basato su delle cose che poi si scoprono dopo che sono false. Bellissimo. Lavoriamo nel futuro, esatto. Dai. Cioè stiamo facendo il romanzo storico del futuro. Bello, bello, mi gusta. Ecco, cioè qua abbiamo già stasera inventato tutto, il manuale di storie alternativi, i vari generi del romanzo storico e addirittura anche il romanzo storico del futuro, e quindi non possiamo fare altro che... Il romanzo storico del futuro può esistere? Sì, certo, se crediamo che si possa viaggiare nel tempo, perché no? Potrebbe essere un romanzo storico, però a quel punto potrebbe essere storia, potrebbe essere, come dici tu, un documentario. Proseguiremo in questa discussione più oltre. Beh, ragazzi, direi che lasciamo in sospeso e i nostri ascoltatori ci dovranno seguire la settimana prossima, obbligatoriamente. Obbligatoriamente. L'unica cosa che devo dire, velocemente, ma vai, tanto vai, forse vai. È inutile, è la Jazz Marathon, ragazzi, 22, 23, bravo, 24 bravo. Maggio, Jazz Marathon, lo sapete perché ormai è cosa nota, il badge famoso in tutto il mondo per la sua scuola jazz. E vabbè, ci sono più di 500 concerti gratuiti, se non approfittate perché non vi piace, e io rispetto i vostri gusti, ma a me piace molto, certo, io spero veramente di andarci.